Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. È sempre più tardi, signor Garanzini. Si faccia sentire, firma un messaggio Rossano. Oppure Mirko alla Bologna scrive: è una mia impressione, il suo programma ha sempre tempi più ristretti. Come e con chi posso protestare? Non lo so nemmeno più io, guardi, sinceramente. So soltanto che sono le 14:12:04 in questo momento e la sigla è partita da 20 secondi. Si faccia sentire, invita Rossano. Sì, mi farebbe piacere farmi sentire in effetti per qualche minuto in più quelli giustamente attribuiti dal palinsesto da voi ascoltatori. Un'Inter decorosa, più o meno in linea con quella che può dare di questi tempi. Sempre capace di graffiare, anche di mordere, però vulnerabile in retrovia, anche se poi si va a vedere i gol subiti sono una prodezza di Jansen, uno che calcia le punizioni come pochi al mondo, e di Milito, che purtroppo ha schiacciato bene in torsione, ma insomma ha sbagliato porta. Mi è sembrato interessante, anzi molto interessante, Coutinho, la freschezza, ma direi anche la personalità con cui è entrato in un momento non facilissimo della partita e anche in un ruolo per lui, ho l'impressione, non così facile e così naturale. Sentiamo che cosa di buono ha trovato Benitez in questo comunque risultato positivo, visto che trattasi di pareggio fuori casa. Penso che la squadra, possiamo dire che è vero che la prima parte era difficilissima, ma dopo il secondo tempo l'abbiamo fatto molto bene, più controllo, non se il punteggio, ma sono soddisfatto con il secondo tempo e sempre contro una squadra difficile. Non abbiamo tanto tempo, dobbiamo lavorare tutti insieme un po' di più, ma almeno si vede cose positive. Questa è l'opinione di Rafa Benitez. Qui è praticamente già ora di mandare gli aggiornamenti sul traffico, perché a casa mia il rispetto dei tempi è necessario, però visto che manca ancora un minuto, facciamo in tempo a sentire che cosa ne pensa Moratti, che cosa pensa il presidente di questo pareggio in casa degli olandesi, e con una coda accessoria sulla lieve squalifica toccata a Burdis. Bene, l'ho vista bene, perché era una partita molto difficile, si sapeva, in un campetto piccolo, una squadra campione d'Olanda che per lei era la finale, insomma, questa partita contro di noi. Devo dire, i nostri bravi, hanno tenuto, mi sembra hanno dimostrato carattere e anche il gioco migliorato. E poi dopo la partita può avere un po' più di fortuna, un po' meno di fortuna come è successo, insomma. Però anche la difesa, che sentivo qualche critica, però uno era una punizione e l'altro un autogol, quindi mi sembra che anche la difesa si è comportata molto bene. Ne ho comunicato sugli arbitri, non è nessun tipo di cosa. È certamente il fatto che, insomma, è sembrato, a chi se ne intende, leggermente leggera la squalifica. Poi mi fa piacere per Burdis, comunque un bravo ragazzo. C'è un commento interessante di Maurizio Crosetti a questo proposito, che chiama in causa sia l'Inter che il Milan e le loro proteste di questo avvio di stagione. 14:15 in questo preciso momento, e quindi strade e autostrade. Eccoci insieme in tempo per sentire anche l'opinione di Milito su questo 2-2, a meno che non ci sia già un ascoltatore in linea, che è qua invece. Simone, Milano, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, dottor Garanzini. Okay. Volevo scambiare con un esperto come lei due pensieri riguardo l'Inter. Io credo che sia molto nobile, dal punto di vista di Benitez, di non ascoltare, diciamo così, messaggi più o meno subdoli di Mourinho, segui la mia scia, segui il mio solco, eccetera, di non rispondere a questi messaggi subdoli. Però credo che si stia facendo un po' del male, nel senso che il gioco con tre mezze punte e una punta poteva andar bene quando tutte le mezze punte e la punta erano in forma e quando correvano come dannati Pande, Vedetò e Milito, ogni palla che toccava segnava. Non mi sembra che siamo più nella situazione di allora. E allora mi chiedo, non vale la pena spostare Eto'o di punta insieme a Milito e fare un 4-4-2? Ascolto per radio quello che ne pensi. Ma è un'ipotesi, una possibilità. In questo momento l'Inter non è al massimo della brillantezza. Bisognerà vedere se e quando ci arriverà, perché io sono certo che si tratti tuttora di scorie involontarie, però di scorie da mondiali, di scorie da... quindi di stanchezza in qualche caso, di stanchezza fisica o comunque di recupero non perfetto in qualche caso, e di e di stanchezza, non stanchezza ma appagamento da in qualche altro caso, forse nella maggioranza dei casi, e questo è un problema serio, è abbastanza subdolo, cui non è facile venire a capo con un modulo o con un altro. Certo, con un modulo più prudente ci si può arrivare, senza dimenticare però che l'Inter degli avvii di stagione negli ultimi anni vittoriosi non è mai stata brillante comunque, e se lo era in maniera molto saltuaria, non c'era un rendimento costante ad alto livello, che invece arrivava poi nel corso della stagione con una flessione sempre a inizio anno. Adesso vediamo se il timer di Benitez cambia da tutti questi punti di vista. Per il momento mi sembra più o meno in linea con le stagioni scorse. Dunque, nel resto di giornata, parlo della prima giornata di Coppa, spicca certamente il 5-1 del Barcellona, con una serie impressionante di magie autentiche di Messi, ma spicca almeno altrettanto per me questo 0-0 sciapo del Manchester con i Rangers. E poiché lo scorso anno furono proprio i grandi club inglesi, no, a fallire collettivamente in Coppa dopo anni di dominio, ho chiesto aiuto per capire questa linea di tendenza a Nicola Roggero di Sky. Buongiorno Nicola. Buongiorno Gigi, buongiorno gli ascoltatori. Dunque, Manchester Rangers tu l'hai vista tutta, per la buona ragione che ti è toccata la telecronaca. Questo non vale per me certamente, ma probabilmente vale per pochi di quelli che sono all'ascolto. Chiedo a te, poco Manchester o che cosa? Dunque, sicuramente poco Manchester. Va detto che Ferguson aveva attuato un largo turnover, di fatto c'erano soltanto tre titolari in campo, erano il rientrante Ferdinand, che si era infortunato prima dei mondiali, c'era Rooney e c'era Fletcher. Ma a parte questo, è stato veramente un Manchester in versione ridotta. Oddio, è vero che i Rangers, come si dice in Inghilterra, hanno parcheggiato il pullman sulla loro linea di porta, praticamente hanno piazzato 10 uomini davanti al portiere McGregor. È anche vero che McGregor di parate vere non ne ha fatte, e di conseguenza questo suona sicuramente perlomeno come un campanello d'allarme per il Manchester, che quest'anno ne ha già dati diversi di segnali negativi. Per sì, due volte si è fatto rimontare addirittura nel recupero clamoroso sabato scorso, 3-1 al 90esimo contro l'Everton, che finita 3-3. E anche contro i Rangers è parso un Manchester così, ma allo stato gassoso, direi. Ripeto, vero che mancavano tanti titolari, è anche vero, come ho ricordato io in telecronaca, che l'anno scorso i Rangers ottennero in tutto il girone di qualificazione 2 punti, fecero certo, 2 pareggi e persero 4 volte. Sì, e quindi chiaramente la scozzese è quello che è. Sì. E qualcosa vuol dire. Nicola, comunicazione di servizio che ovviamente non può che essere messa in onda. Metti giù che proviamo a richiamare, perché la qualità della linea non è, al momento non è perfetta, e noi intanto cominciamo ad affacciarci verso le partite di stasera mentre ripristiniamo il collegamento, ascoltando una breve vigilia di Allegri di Milano Xer. Non mi accontento di arrivare secondo, come non ci deve accontentare nessuno, come non ci accontenteranno sicuramente i ragazzi. I tre ragazzi davanti abbiano tutte le qualità, oltre che tecniche, anche fisiche, per giocare, per aiutare il resto della squadra quando la squadra non è in fase difensiva, ecco. C'è un altro frammento di vigilia del debutto in Coppa del Milan, del ritorno in Coppa del Milan e del debutto assoluto per Allegri, stavo facendo un tantinello di confusione, ed è questo breve frammento di Pato. Sempre penso in arrivare in finale, sempre voglio fare il mio meglio, voglio arrivare in fine in fondo con Milan, questo non sarà uguale, sono sicuro che con questa squadra arriviamo fino in fondo. Vediamo se funziona meglio il collegamento con Nicola Roggero. Nicola? Eccomi qua. Meglio, molto meglio, molto meglio, molto molto meglio. Perfetto. Molto meglio, molto peggio invece per il povero Valencia. Ancora pochi minuti fa ho rivisto sempre da voi le immagini di questo incidente. Drammatico perché non c'è contrasto, perché la caviglia di questo disgraziato a un certo punto si pianta nel terreno e si snoda, non so, io ho avuto quell'impressione. Sì. Esattamente così, un contrasto assolutamente fortuito con Bob Foot, il difensore dei Rangers. Praticamente la caviglia resta pizzicata in questo contrasto tra la caviglia di Bob Foot e il terreno, e purtroppo io, che insomma, stavo commentando, mi sono subito accorto che c'era una torsione totalmente innaturale, e insomma si è subito capito dai gesti di Valencia, degli stessi giocatori di Rangers, soprattutto di questo povero Brockfoot che era totalmente innocente e chiaramente avrebbe sparato nel momento in cui venivano portati questi soccorsi a Valencia. Ho apprezzato molto anche l'atteggiamento della TV inglese, che ha evitato di mandare dei replay subito, perché era aggiungere drammaticità a un evento che purtroppo era già drammatico così, quindi non c'era bisogno di cercare ulteriori immagini, perché la situazione era abbastanza chiara. Impressione di sì, un'immagine, sì certo, si sono comportati benissimo tutti intorno a lui, dal pubblico all'avversario in particolare, che è stato il primo a cogliere la gravità dell'accaduto. E allora, visto che comunque la qualità del collegamento oggi continua a non essere ottimale, concludiamo con uno sguardo a Chelsea, soprattutto al Chelsea, che ho l'impressione sia quella che poi in questo momento possa risollevare un pochino le sorti collettive del calcio inglese anche in campo europeo, ma senza dimenticare l'Arsenal, e insomma, mettendo insieme anche quel che di molto buono prima e poi di meno buono dopo c'è stato nell'esordio del Tottenham di ieri sera. Sì, Chelsea e Arsenal sono capitati in due gironi obiettivamente molto molto agevoli, perché il Chelsea è vero che era l'Olympique Marsiglia, è anche vero che con Spartak Mosca e soprattutto Žilina, che è l'avversario di questa sera, campione di Slovacchia, non dovrebbero avere molti problemi gli uomini di Ancelotti. Idem l'Arsenal, che con Sporting Braga, Shakhtar Donetsk che parte in San Belgrado, sarebbe davvero sorprendente non finisse al primo posto. Il Chelsea, a mio parere, è una corazzata, lo era già l'anno scorso, ha avuto la sfortuna di affrontare l'Inter nel momento peggiore della sua stagione, quello in cui aveva tanti infortuni, però sicuramente sarà una squadra da tenere fino in fondo. Quanto al Tottenham, duble fase, bene la prima parte, meno bene la seconda. Ricordo che il Werder Bremen è una squadra veramente pazza in questo senso, è capace di fare e disfare all'interno della stessa partita, grande attacco e difesa molto allegra. Attenzione però, perché il Tottenham non aveva Jermain Defoe in attacco, certo. Non lo aveva per parecchie settimane, però insomma anche con l'aggiunta di Defoe potrebbe diventare quella che viene definita ormai da anni la mina vagante della Champions League. Molto bene, grazie allora a Nicola Roggero. Chiudiamo questo collegamento leggermente tormentato per ragioni di audio oggi, ma insomma sono cose che accadono proprio quando si cerca di arricchire il programma con collegamenti volanti. Guardiola non ha dubbi, Messi è il miglior giocatore del mondo dopo questa straordinaria partita di ieri sera. Guardiola ha detto: lui è il primo di gran lunga, il secondo può anche sforzarsi ma farà fatica ad avvicinarlo, perché oltre che fenomenale, a Messi piace molto giocare, ha lo spirito di un amateur ed è a suo agio in qualsiasi posto giochi. Stiamo ovviamente parlando del Messi del Barcellona e non del Messi dell'Argentina. Massimo è in linea da Pisa, buongiorno. Buongiorno Gigi, io non voglio né intristire la trasmissione, tantomeno metterti addosso un abito diverso da quello che di solito fanno i radioascoltatori. Non riesco a darmi una spiegazione, magari chiedo il conforto e la tua opinione, del fatto che è iniziato un campionato e non mi dà pathos, non mi dà adrenalina, non mi dà la voglia di mangiare mezz'ora prima per vedere una partita che inizia, oppure decidere di mangiare una pizza al sabato anziché vedere l'anticipo o la domenica sera il posticipo. È un fatto personale o c'è qualcosa che nel calcio comunque sta succedendo, non ha più le caratteristiche o quelle cose che comunque ognuno di noi cercava? Non mi dà più la voglia che avevo qualche anno fa di vederlo, e lo seguo da 40 anni. Perché secondo te? Io non riesco a darmi una spiegazione. Non saprei, potrebbe essere usura, potrebbe essere nausea, potrebbe essere stanchezza, potrebbe essere che nella vita ci sono cose più importanti e passando gli anni magari uno se ne accorge vittoriosamente, per il mio, e non è mai troppo tardi per scoprirlo. Potrebbe essere che appunto che cambiano i gusti, no? Che cambiano i richiami per il tempo libero, che il calcio faccia molto per come dire, rinnovarsi e quindi mantenere e garantirsi la fedeltà, ecco, dei fruitori di antica data, mi sentirei di escluderlo. Ci vuole, c'è un'atmosfera che si fa effettivamente ogni anno un po' fatica a ricreare, ma poi io penso che siano questi parametri molto soggettivi. La ringrazio del suo intervento. Torniamo in onda e come promesso ieri ci ha puntualmente riraggiunto Marco Bellinazzo. Buon pomeriggio. Buongiorno Marco, senti, io comincerei da un paio di aggiornamenti, poi ci sono puntuali alcune mail, ho selezionato alcune delle mail arrivate per porti i quesiti per l'appunto degli ascoltatori in materia di sciopero, calciatori e dintorni. Lei ci è appena uscita un'agenzia in cui dice che la giornata cruciale sarà quella di venerdì, secondo l'Associazione dei Calciatori, quando il dibattito diventerà anche politico e si andrà ad oltranza. L'incontro di ieri è stato positivo, anzi di lunedì è stato positivo, ma su alcune questioni siamo ancora distanti. È anche la tua sensazione o siamo sulla pretattica? Beh, avevamo anticipato insomma anche che lo sciopero non si farà, poi verremo smentiti, ma insomma ci sentiamo di poterlo assicurare. E tra venerdì e sabato la situazione dovrebbe essere risolta. Nell'incontro che si è tenuto stamattina, nell'incontro tecnico, chiamiamolo così, le parti hanno, come dire, messo nero su bianco le rispettive richieste. Ora toccherà capire quali saranno i compromessi che si troveranno, ma non c'è dubbio che si va verso una soluzione positiva del confronto. Positiva, che magari sarà ancora lunga da trovare per ragioni tecniche, ma che insomma si troverà. Visto che stiamo aggiornando l'attualità, stamane c'è stato uno strappo in borsa della Roma che è arrivata a guadagnare sino a quasi il 7% in più come titolo, e ci sono dichiarazioni insomma abbastanza entusiaste da parte del vice amministratore delegato di Unicredit Paolo Fiorentino, che dice: stiamo investendo per far sognare tifosi e città. Immagino che si riferisca insomma alla possibilità di trovare un acquirente insomma che possa rilanciare il progetto Roma e investire in calciatori sempre più importanti insomma come merita la capitale, insomma come meriterebbero tante squadre italiane, se vogliamo. Sì, e non soltanto la Roma, però di questo stiamo parlando in questo momento. Oh, arriviamo alla posta ricevuta. Prima di arrivare allo sciopero vero e proprio, c'è un'interessante lettera firmata Cosmo Albertini che domanda, che dice: non ho compreso due cose a proposito di fair play finanziario che l'UEFA sta cercando di imporre nel calcio, nell'intero calcio europeo di club. Quali sono gli strumenti coercitivi attraverso cui l'UEFA potrà imporre queste regole e quali sono o saranno gli attori che eserciteranno il controllo e la sanzione degli inadempienti? Innanzitutto è stato istituito a giugno un panel di controllo che ha a capo l'ex primo ministro belga De Haan, che dovrà gestire effettivamente poi le modalità di verifica puntuale sui bilanci delle squadre. Dal 2012-2013, insomma fra tre anni, sarà applicato di fatto per quella stagione il controllo più rigoroso, per cui scatteranno penalizzazioni e sanzioni fino all'esclusione dei club dall'Europa. Diciamo che è un percorso graduale, ora al di là delle date insomma e dei parametri economici che verranno fissati di volta in volta per i singoli club. Fatto sta che il fair play finanziario non è però qualcosa che arriverà domani, è già presente, tant'è vero che il Mallorca è stato escluso dall'Europa League, dal quarto turno, proprio perché aveva debiti finanziari per oltre 60 milioni, non riusciva più a pagare stipendi, insomma, i propri fornitori, e è stato promosso invece un altro club spagnolo, insomma, quindi al suo posto. Fair play finanziario insomma è qualcosa che è già realtà per le federazioni che vogliono applicarlo. Vedremo quando la federazione poi spagnola vorrà applicare severamente queste regole anche al Real Madrid e al Barcellona, insomma, che proprio pochi debiti non hanno. Direi di no. Per tornare a inquadrare il tema sciopero o non sciopero, che poi non sarà sciopero, ma insomma se ne è parlato molto lungo, se ne parlerà certamente ancora, e ieri esaminando le richieste abbiamo visto che, come spesso o se non sempre accade in questi casi, c'era del giusto o come minimo del legittimo da una parte e dall'altra. Ripeto, per inquadrare l'argomento, Lorenzo Germani da Pavia domanda: ma al di là dei tecnicismi e delle ragioni delle parti, come si può far digerire alle persone normali come me e come voi, coi tempi che corrono, uno sciopero da parte di una categoria tra le più privilegiate del paese? E questo mi sembra il grande tema di fondo. Il grande tema di fondo, quello che ha suscitato il dibattito pubblico e non solo, diciamo, nei luoghi deputati a discutere di queste cose, ma appunto anche nei salotti e nei bar. Tutti ci siamo chiesti se è giusto o meno, insomma, accettare l'idea di uno sciopero da parte dei calciatori. L'abbiamo spiegato ieri, insomma, prescindiamo dai moralismi, abbiamo guardato le singole richieste. I calciatori, se vogliamo, sono e restano lavoratori dipendenti, anche se la Lega vorrebbe sempre più imporre una visione diciamo più da lavoratori autonomi per soggetti che guadagnano milioni di euro, ma non scordiamoci che ci sono anche ragazzi, insomma, che giocano nelle serie minori. Il contratto di cui stiamo discutendo riguarda la Serie A, ma è chiaro che poi avrà ripercussioni anche sui contratti che dovranno essere siglati per la Serie B e poi per la Lega Pro. E quindi sul piano normativo questo, e sul piano normativo faranno, è chiaro che faranno scuola. E quindi è una battaglia che può essere svolta a livello apicale, cioè tra i giocatori di Serie A, che hanno un potere contrattuale, e la Lega, e la fanno questa battaglia, immagino, anche per i colleghi meno bravi o comunque che giocano nelle questo, categorie questo inferiori. È sicuro, la IC è nata così nel 68, non è che Rivera, Mazzola, il compianto Bulgarelli e gli altri, Castano, Losi e gli altri fondatori di allora si battessero per sé. Avevano qualche rivendicazione per sé, soprattutto a proposito di vincolo che allora c'era, e ma se parliamo di tutele, di assistenze, di garanzie e di quattrini, che in questo caso invece sono assenti, parlavano evidentemente per le categorie inferiori. Questo non impedisce a qualche ascoltatore invece di arrabbiarsi più seriamente e di scrivere: vergogna. I calciatori sono trattati come dipendenti, e noi medici del Servizio Sanitario Nazionale SSN siamo invece considerati liberi professionisti. È una delle contraddizioni che abbiamo cercato di mettere a fuoco, e che la Lega sta cercando di risolvere in un modo, la ECI vorrebbe che non si risolvesse, che quindi i calciatori restassero lavoratori dipendenti con le tutele che in qualche modo prevede lo statuto dei lavoratori, sia pure mitigate, insomma, o adeguate al tipo di prestazione. Grossa, immagino che si possa vederla così. Chiaramente ci sono vincoli di subordinazione del calciatore, che deve essere soggetto a una serie di regole dentro e fuori dal campo, dentro e fuori dallo spogliatoio. Le società vorrebbero che questi vincoli si estendessero anche fuori. Abbiamo ricordato ieri che c'è la proposta, appunto, di imporre il consenso della società per tutte le attività professionali che i giocatori dovessero intraprendere, quindi extra calcistiche, quindi abbiamo fatto l'esempio del ristorante, insomma, o di altre attività, e invece c'è la rivendicazione di libertà da parte dei calciatori di intraprendere queste iniziative, soprattutto per il dopo carriera. Certo. Beh, a parte alcuni messaggi interessanti arrivati a proposito dell'ascoltatore demotivato di prima, che ha chiamato poco prima nell'intervallo per i mercati, e che appunto ci raccontava del suo disamore progressivo, che io, intendiamoci bene, condivido al 150%, ma mi sembrava giusto rispondergli a quel modo. Poi ci sono alcuni, e non sono pochi, ne cito uno, Flavio da Ferrara, che invece vanno giù un po' più per le spicce. Dico, penso che l'ascoltatore di prima, cui poco alla volta in questi ultimi anni è passata la voglia, sia semplicemente juventino. Vabbè, ma queste sono ovvie battute da tifo. Invece restiamo almeno per il momento ancora su questo argomento. Scrive un ascoltatore, Roberto, dice: potrebbe spiegarmi, dottor Belinazzo, come mai nei dilettanti un ragazzo non può svincolarsi fino ai 25 anni, e se per caso arriva una società professionistica esiste un premio preparazione? Io lo trovo inconcepibile. Beh, il fatto, immagino che si riferisca al fatto, insomma, che fino a 25 anni non ci si possa liberare in maniera gratuita o più semplice, non tanto, immagino, per quanto riguarda il premio invece di certo. Formazione, di cui spesso abbiamo parlato, e che anzi dovrebbe essere rafforzato. Spesso, tra l'altro, quando le società di Lega Pro, dilettanti, cedono i propri giovani ai club più titolati, si vedono poi non corrispondere. C'è stato tutto un problema che credo in parte sia risolto proprio per il pagamento di questo premio di formazione. Credo che ci sia un problema generale, ma è noto, tant'è vero che una delle iniziative più importanti subito dopo il fallimento del mondiale è stata quello di rivedere tutto l'organigramma, l'organizzazione e la gestione del calcio giovanile e scolastico, sì, in Italia, e chiaramente servono regole che da un lato facilitino, come dire, la formazione e la promuovano, dall'altro, appunto, regole che impongano, voglio dire, vincoli più rigidi nei confronti delle squadre e delle categorie superiori affinché non scippino di continuo, insomma, i giovani calciatori alle squadre che li formano e li allevano. Si capisce. Ci è rimasto un argomento tra quelli ereditati da ieri, che è quello che riguarda le sanzioni nei confronti dei calciatori. Che me... Però è un capitolo che apriamo, perché io oggi tengo in maniera particolare la puntualità. Quindi 45, dunque, sentiamo come va su strade e autostrade. Eravamo all'ultimo per ora capitolo da affrontare, e cioè quello delle multe. Detto in maniera molto volgare, ci sono regolamenti interni che ciascuna società vorrebbe gestire a modo proprio per inadempienze contrattuali dei calciatori, per squalifiche, scatta il tariffario interno e la squalifica costa una certa percentuale di emolumenti al giocatore, tutte cose che attualmente sono regolamentate, credo, a livello collettivo, e forse le società le vorrebbero come gestire in proprio. Sì, so che questo è un punto che ha fatto arrabbiare molti calciatori, anche se è un punto di cui si parla di meno. Sostanzialmente oggi sì. Una società, se vuole irrogare una sanzione, deve rivolgersi al collegio arbitrale, quindi della Lega, terzo, giusto. E quindi, insomma, trovare in questo modo una sorta di composizione del conflitto interno. Le società invece vorrebbero applicare automaticamente le sanzioni, quindi il giocatore si ritroverebbe semplicemente con una decurtazione dell'ingaggio. Oggi c'è un limite che va dal 20 al 30%, le società vorrebbero eliminare qualsiasi limite, quindi trattenere quella parte dell'ingaggio che ritengono giusto in funzione della violazione che il giocatore ha compiuto, e il giocatore, se vuole protestare, deve rivolgersi al giudice del lavoro. Io già immagino i tribunali in base dai vari giocatori. Beh, insomma, ci mancherebbe solo quella in questo paese. Pronti a protestare insomma, per una decurtazione dell'ingaggio. Anche su questo punto mi risulta che si sta trovando un compromesso per salvare il ruolo dei correggi arbitrali, magari per riformarli. Me lo auguro. Vedi però come il tempo sia tiranno, perché questo è un argomento che si presterebbe a mille sfaccettature, e un giorno o l'altro probabilmente lo riprendiamo, perché anche da un punto di vista... Cioè, è ovvio che a prima vista la protesta del calciatore sembra, no, come sempre, un diritto eccessivo che vogliono far valere, però in realtà un fondamento ce l'hanno queste eccezioni, questo eccepire, no? Pensiamo semplicemente al caso del calciatore che fa un fallo tattico, quindi ottiene l'ammonizione, ma nell'interesse della squadra, e magari il regolamento interno, dopo un tot di ammonizioni, prevede una multa. È chiaro che ci sarebbe molto da discutere sulla efficacia di questa sanzione o sulla diciamo giustificabilità della stessa. Certo. Come tutti gli automatismi, però insomma, vabbè, un giorno o l'altro capiterà. Leggo un'ultima ora da Sky Sport: Brighi titolare stasera a Monaco contro il Bayern, con Menez che partirà invece dalla panchina e con Perrotta trequartista. Grazie allora a Marco Belliazzo. Grazie a voi. Grazie a un appuntamento vicinissimo nel tempo, perché questa è una vicenda che andrà a buon fine, ma continua, ed è il momento invece di ascoltare cosa è successo nella storia dello sport in un 15 settembre da Nicola Filippone. Sembra ieri. 15 settembre 1965. L'Inter di Herrera conquista per il secondo anno consecutivo la Coppa Intercontinentale. Come era accaduto l'anno precedente, i nerazzurri si impongono sugli argentini dell'Independiente di Avellaneda. Dopo aver vinto a San Siro per 3-0, con doppietta di Mazzola e gol di Peiro, in Argentina Facchetti e compagni riescono a contenere con efficacia l'Independiente, costringendolo a un pareggio senza reti. Dopo l'Inter, prima squadra italiana a vincere l'Intercontinentale, il trofeo finirà in Italia altre 6 volte, 2 alla Juventus e 4 al Milan, contando anche il mondiale per club conquistato dai rossoneri nel 2007. Stefano in linea da Rovigo, buongiorno. Buongiorno, una cosa che non c'entra niente con il calcio, però io la seguo molto spesso e ho notato che tanta gente quando la chiama le dà del tu. L'ascoltatore, ecco, non so se a me dà fastidio, perché una persona che non conosco è giusto dare del rispetto del lei, insomma. Lei so che è una persona gentile, non fa mai questi appunti, però mi piacerebbe sapere se anche lei la pensa come me, ecco. Direi proprio di sì, Stefano. Se ha notato prima all'ascoltatore Pisano che dava del tu, ho risposto con il lei. Poi un giorno ci si conosce ed è molto piacevole passare al tu, ma anzi è una conquista, direi. Però come tutte le conquiste vanno, secondo me, guadagnate, ma guadagnate non in base a chissà quali parametri, semplicemente ad una conoscenza un pochino diretta, io, insomma, è una questione generazionale, non amo il tuo a prescindere, mi pare di capire, cioè, ho sentito che anche per lei è la stessa cosa. Maurizio in linea da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, volevo semplicemente rispondere all'ascoltatore che non si diverte più, no, con il calcio. Beh, io sono tifoso del Toro, cosa dovrei dire allora? Beh, no, ma vede, io non la questione di tifo poi l'ha fatta un altro ascoltatore dopo, è chiaro che il tifoso si diverte di più quando la sua squadra vince o va bene e si diverte poco quando perde o va male. Mi pareva un discorso diverso quello che quell'amico pisano aveva proposto, no? Mi sembrava un discorso un po' più articolato. Sembrava... Sì, certo. No, volevo solo sapere se ce la facciamo a venire in Serie A oppure no. Non ne ho la minima idea, Maurizio, e così se dovessi giocare 1x2 metterei 2 fisso, cioè no, però poi invece magari è la volta che il Torino ce la può fare. Non capisco per una società col passato del Torino che soddisfazione sia tornare in A sapendo che ci si torna con l'ascensore pronto, no? già prenotato, come è successo in tutti questi ultimi anni. Però capisco che in questo momento già sarebbe un piccolo traguardo. No, ma il pisano prima faceva un discorso diverso, più serio, e io credo si riferisse, poi incombeva l'appuntamento con la borsa e non ho potuto prolungare la conversazione, me ne è anche dispiaciuto. Sempre per via che qualcuno i tempi li rispetta, credo intendesse riferirsi a una somma di cose, e cioè al fatto che si gioca tutte le ore, al fatto che giocandosi tutte le ore se ne parla evidentemente a tutte le ore in tutti i giorni della settimana, al fatto che allo stadio non ci puoi più andare, perché oppure ci vai ma ci vai a tuo rischio e pericolo e comunque ti diverti molto meno, non è una bella improvvisata dell'ultimo momento come poteva essere una volta, ma deve essere una cosa pianificata nei secoli addirittura per superare tutte le barriere e gli ostacoli che ti pongono, questa panacea della tessera del tifoso che io invece chiamo buffonata, insomma sono tutte queste cose che insomma, effettivamente creano un tantino più di disamore che non di grande richiamo. Abbiamo una voce di Ranieri ancora da ascoltare, che è quella sulla vigilia per l'appunto di stasera. Vi ho detto che vedrà Brighi titolare con Menez invece in panchina. Ranieri. La partita la faremo come la Roma è abituata a farla, non è che si può stravolgere una squadra, anche perché abbiamo diversi infortunati, per cui in base a quelli io farò le mie scelte, non in base a venire più guardinghi, meno guardinghi, sistemi di gioco, tutte queste cose non sono realtà. La realtà la conosce l'allenatore, poi se le cose vanno bene l'ha indovinata, se le cose vanno male si fa dietrologia, poteva fare questo, questo e quell'altro. Questo è il nostro mondo, lo sappiamo benissimo. In questi inizi abbiamo avuto delle difficoltà, le stiamo pagando, però io della squadra sono contento, l'ho detto a loro, noi dobbiamo continuare a insistere, a lavorare, perché soltanto con la serietà che c'è, con il lavoro che c'è, possiamo venirne fuori. Tutto qua. Antonio in linea da Pisa, buongiorno. Buongiorno, ma velocissimo, secondo me uno dei motivi per cui ci si affeziona meno al calcio è anche l'inflazionamento del prodotto, c'è troppo, c'è tutti i giorni, però io non era di questo che volevo parlarle, volevo fare anch'io rapidamente un fuori tema. Sto leggendo quel bellissimo libro che lei ha scritto e che si chiama Il romanzo del vecchio, che parla di Berzot, e a questo proposito volevo chiederle, forse sono impaziente, lo troverò più in là nelle pagine, ma lei che era già allora così amico di Berzot, cosa scrisse, come si comportò dopo Italia-Perù o dopo Italia-Camerun nel mondiale 82, in cui obiettivamente giocammo molto male? Ecco, questo la ascolto per radio, la ringrazio. Antonio, non lo ricordo onestamente, è un libro che ho scritto 13 anni fa, quando Berzot compì 70 anni, era un libro in onore dei suoi 70 anni, ne sono passati 13, tra poco ci sarà un altro compleanno, insomma un po' meno allegro, temo, perché la salute di Enzo Berzot non è di ferro, insomma, è perché appunto un po' di anni sono passati. Un po' quello è un po' il fatto che vorrei restituire la linea in tempo, a differenza di altri, mi fa, come dire, mi mette un pochino in difficoltà. Sì che grazie per il suo intervento, grazie a Roberto Scaltritti in regia, grazie a Franco Piantanide in redazione, buon pomeriggio a tutti. Tempo di Sport.